Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. La storia di un operatore sanitario che mi ha contattata perché voleva un sostegno per il fatto che per la prima volta in modo così netto si è trovata a confrontarsi con la morte. E nel suo racconto mi aveva particolarmente toccata il suo senso di responsabilità, perché mi diceva che era molto felice per le persone che erano guarite, che erano la maggior parte e sono la maggior parte, ma che per lei avevano un grande peso sulla sua anima gli sguardi di coloro che invece non ce l'avevano fatta e di quanto ciascuno di loro era stato importante per lei. Mi ha colpita in particolare perché, lavorando nel campo della medicina palliativa, gli operatori con cui io mi confronto sono tutti operatori che hanno dimestichezza con il tema della morte e dell'accompagnamento. Con lei riflettevo che chi invece non ha questo tipo di formazione e non lavora tutti i giorni con l'accompagnamento alla morte, in questo momento si trova comunque a dover affrontare questo tema. Questa che avete appena sentito è una delle storie che Carlotta Ghironi, psicologa di Vidas, ha raccolto nel corso del suo lavoro. A chiamarla sono i medici, gli infermieri e il personale che sta lavorando in ospedale in questi giorni di emergenza coronavirus. Per loro è stato istituito un pronto intervento psicologico. Le persone che mi chiamano parlano soprattutto di un disagio che sentono, che si può manifestare in vari modi. Può essere un senso di timore, di paura. Timore è la paura di essere contagiati, ma anche il timore di poter contagiare altre persone inconsapevolmente. La paura e la responsabilità che si sentono di avere nei confronti dei pazienti e quindi il timore di non riuscire ad aiutarli fino in fondo. Mi parlano della fatica. Fatica fisica, fatica mentale di dover sostenere un lavoro che fino a quel momento non aveva questi ritmi e non aveva questo impegno. Quindi il lavoro per gli operatori e per gli ospedali è stato nel giro di pochissimo tempo completamente stravolto. Sono stati fatti nuovi pensieri e nuove riorganizzazioni. E anche la modalità di lavoro è ovviamente cambiata e questo ha un suo peso. Mi parlano anche dello sguardo che sentono di avere da parte del resto della popolazione, del mondo, e poi mi parlano dei sintomi che spesso hanno e che sono anche un sottofondo nel quotidiano. Nel senso che spesso presentano delle difficoltà nel dormire, delle agitazioni notturne, un senso di inquietudine, di irrequietezza, non ben definibile, ma che li accompagna e ovviamente li stanca maggiormente. Un servizio di sostegno è stato pensato anche per tutte le famiglie che hanno dovuto vivere la perdita di una persona cara senza la possibilità di starle accanto. Sonia Ambrosetti è una psicologa e riceve decine di chiamate al giorno da tutta Italia. La specificità di questo periodo ed è esattamente quello che le persone sottolineano subito, e cioè la sofferenza per non aver potuto salutare il proprio caro, e non solo per non averlo potuto salutare, ma proprio per non aver potuto stare con la persona in quelli che poi si sono rivelati gli ultimi giorni della sua vita. Questa è davvero una sofferenza molto profonda e non è, diciamo, una condizione di normalità. Quindi il lutto è appesantito anche da questo, porta con sé anche dei sensi di colpa, soprattutto se la persona è stata portata in ospedale. A volte le persone dicono: se non l'avessi mandato in ospedale. Quindi c'è davvero una sofferenza in più da questo punto di vista, che è data dal non essere potuti stare presenti. E l'altra cosa che fa soffrire molto le persone non è tanto e solo un rito di commiato, ma è il fatto che i riti di commiato prevedono una condivisione con i propri cari, della famiglia, con le persone che restano, che adesso è impossibile, quindi le persone si trovano a soffrire sostanzialmente in solitudine e questo rende il lutto davvero molto molto faticoso e fa sentire molto più soli che non in una condizione normale. Quindi quello che mi viene anche detto al telefono è il fatto di poterne anche solo parlare al telefono con qualcuno dà comunque un po' di sollievo. Nel particolare la storia che resta più addosso a Sonia è quella di una madre di oltre 80 anni. Una signora mi ha chiamato per dire che non sapeva come avvertire la propria madre, che è una donna di 89 anni, che il figlio e quindi il fratello della signora che mi ha chiamato, che era in ospedale già da una ventina di giorni, in realtà purtroppo era già deceduto e questa figlia non sapeva come dirlo alla mamma, 89enne. E questa signora 89enne, ci siamo accordate con la figlia che se voleva poteva chiamarmi. In effetti la signora mi ha chiamato quando era sola, perché ha detto che voleva che fosse una conversazione privata, quindi non con la figlia presente, e la signora mi aveva espresso la sua consapevolezza sul fatto che il figlio ricoverato in ospedale stava soffrendo molto e nella sua mente c'era addirittura una preghiera perché questo figlio non dovesse soffrire così tanto, e la signora mi dice: so che non dovrei dirlo, è mio figlio, ma il pensiero che stia soffrendo così tanto, che sia da solo, che io non lo posso vedere e che abbia una malattia così importante, se deve soffrire così tanto, il Signore se lo prenda, tanto anche molto presto io lo raggiungerò perché ho già 89 anni. Quindi la cosa interessante è stata che in questo rapporto privato tra me e questa signora anziana, quando poi la figlia è riuscita a dirle che il figlio purtroppo era morto, la signora mi ha chiamato la sera e mi ha detto: questa è la prima telefonata che faccio oggi e la faccio ad un'amica perché so che a lei posso dire che adesso mio figlio non c'è più. Cioè la mia vita è finita, anche se vivrò ancora per la figlia che mi resta, però diceva, sentivo proprio il bisogno di parlarne con lei perché lei ha saputo ascoltarmi e accettare anche che io potessi dire una cosa così terribile. Quindi questa è una storia che mi ha molto colpita per quanta saggezza ci sia negli anziani e quanto a volte noi li vediamo soltanto dal punto di vista della loro fragilità e non invece dal punto di vista della loro grande esperienza e consapevolezza. L'impegno e la lunga esperienza di Vidas nell'offrire assistenza a persone con malattie inguaribili sono stati messi a disposizione di chi ha dovuto fare i conti con la morte in modo assurdo, rapido, doloroso, come spiega Giada Lonati, medico palliativista. Vidas ha scelto fin dall'inizio di potenziare la propria attività sul territorio e in hospice, aumentando nei limiti del possibile la capacità assistenziale, con l'idea che la nostra prima funzione, essendo operatori attivi sul territorio e in hospice, fosse quella di alleggerire l'attività degli ospedali che, almeno nella prima fase, hanno subito una fortissima congestione e hanno dovuto dedicare le loro risorse prevalentemente all'assistenza dei pazienti Covid. In questa seconda fase noi ci siamo resi disponibili, come da richiesta di regione, a prendere in assistenza a domicilio e a offrire consulenze nelle RSA per i pazienti Covid che abbiano bisogno di cure palliative. Ci siamo mossi in questo tempo bilanciando la necessità di offrire un servizio ai pazienti e alle loro famiglie e al tempo stesso di salvaguardare al massimo la salute degli operatori. Per cui abbiamo naturalmente ci siamo adeguati alle procedure che ci sono state richieste, cercando di essere più attenti possibili. Abbiamo scelto di prendere in assistenza il maggior numero di pazienti possibili, se necessario riducendo il numero degli accessi domiciliari, garantendo comunque sempre una reperibilità H24. Prima di ogni accesso domiciliare verifichiamo quali sono le situazioni del paziente e dei familiari. Abbiamo fornito i nostri operatori di tutti i dispositivi di protezione individuali utili per affrontare al meglio questa emergenza, che naturalmente al domicilio risulta ulteriormente complessa, perché un conto è una procedura di vestizione e disvestizione fatta in struttura, un conto è in una casa o sul pianerottolo di un paziente. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 Mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Nelle famiglie vedo anche qui, insomma, la preoccupazione dei familiari che si trasforma spesso in un allontanamento, quindi i figli che non vanno a trovare i genitori, che sono più lontani, che si vivono la malattia di un familiare, di un caro da distante, con una preoccupazione maggiore sicuramente. Così Maura degli Innocenti, uno dei medici di Vidas che ogni giorno va nelle case di chi ha bisogno di cure palliative. Un lavoro che cambia, si carica di paure altrimenti lontane. Un lavoro che porta tante scelte faticose, come ci spiega Giada Lonati. Abbiamo inevitabilmente chiuso proprio materialmente la porta d'ingresso dell'hospice, cosa che non è mai successa da che è aperto, quindi dal 2006, perché dobbiamo controllare chi entra, dobbiamo sottoporre i nostri ospiti e visitatori al controllo della temperatura, oltre che gli operatori, e in qualche modo abbiamo dovuto limitare anche l'accesso del numero di familiari, salvo deroghe legate purtroppo proprio alla fase di congedo ultima, in cui consentiamo, anziché ad un solo familiare, magari di essere presenti a due familiari perché possano salutare la persona che sta morendo. È chiaro che questo ha cambiato proprio un po' quello che è l'approccio classico. Un hospice è una struttura che ha le porte aperte, in cui entra molta vita, entrano i familiari, entrano i bambini. Abbiamo la pet therapy, abbiamo tutta una serie, l'arpa terapia, abbiamo i clown che vengono a trovarci. Questo naturalmente sono tutte funzioni che abbiamo temporaneamente sospeso e questo ha cambiato il clima. A questo si aggiunge il fatto che tradizionalmente le cure palliative sono ad alto impatto umano, ad alto impatto di tocco e a basso impatto tecnologico, comunque a ridotto, giusto impatto tecnologico, e in questo momento noi ci troviamo a occuparci dei pazienti con le mascherine, con i guanti, qualche volta con le cuffie, gli occhiali e i camici, a seconda del rischio di contrarre la malattia o che a seconda del livello di prevenzione necessario. E questo cambia molto perché qualche volta c'è una comunicazione che passa attraverso un movimento microscopico degli occhi, della bocca, attraverso un tocco. Ci sono delle situazioni in cui, tenendosi la mano, ci si dicono cose che le parole non riescono a dire o che le parole non sono in grado in qualche modo di dire, e questo invece cambia molto. Io ho presente anche quante volte per me nella fase di congedo andare a salutare una famiglia che ha avuto un lutto, io ho presente una serie di abbracci proprio in cui ci si contiene reciprocamente, e in quell'abbraccio si dicono delle cose che le parole non riescono a dire, un po' perché la voce è rotta dalla commozione oppure perché c'è proprio un incontro di umanità. Ecco, questo abbiamo dovuto declinarlo diversamente. Restare impigliati in un dolore solitario, difficile da rielaborare, è questo il rischio che corrono le centinaia di persone che hanno subito un lutto a causa del coronavirus, come spiega Sonia Ambrosetti. Tutte le persone che sentono il bisogno di un supporto psicologico vengono tutte ascoltate. Se le necessità sono più generiche, generali, le orientiamo verso altre situazioni. Se invece le persone che chiamano hanno necessità di un supporto per il lutto, perché hanno perso qualcuno durante questa fase della loro vita, allora possiamo lavorare e anche avere dei colloqui. Al momento a me sono arrivate intorno alle 130 telefonate. Naturalmente di queste 130 non tutte sono fortunatamente per il lutto, in realtà vengono fuori anche tutte le difficoltà psicologiche che le persone hanno nel vivere questa situazione, che vanno dal come riuscire a stare chiusi in casa visto che non ci siamo abituati, come fare i conti con la paura del contagio, come riuscire a gestire alcune relazioni all'interno della famiglia. Diciamo, tante sono poi le richieste che arrivano non connesse direttamente al lutto, poiché la nostra è una linea dedicata. In questi casi io ascolto qual è il problema e poi oriento la persona al numero telefonico della Croce Rossa Internazionale, che è in contatto con tante altre realtà che danno supporto psicologico, e quindi vengono messe in contatto le persone con altri psicologi. So che il servizio sta funzionando bene, perché a volte poi arrivano anche a me le telefonate di chi ha chiamato l'altro numero, anche solo per ringraziare, e credo che in questo momento gli psicologi stiano fornendo un contributo a distanza piuttosto consistente ed anche piuttosto efficace. Un supporto pensato anche per i medici e gli infermieri, come racconta Francesca Brandolini, coordinatrice dello sportello psicologico Vidas. Il lavoro di Vidas è da sempre quello di accompagnare i malati inguaribili nel tratto finale della loro esistenza, cercando di rendere questo passaggio il più possibile sereno e senza dolore. Allo stesso tempo Vidas si prende cura dei loro familiari, sostenendoli psicologicamente durante l'assistenza, offrendo loro un servizio di supporto al lutto successivo alla perdita. In questo momento così complicato, che ha colto alla sprovvista noi tutti perché ha scardinato abitudini e certezze, abbiamo pensato che fosse doveroso da parte nostra avere un'attenzione particolare per chi perde una persona cara a causa del coronavirus, proprio perché per queste persone il dolore è amplificato dalla disperazione per non aver potuto accompagnare il proprio familiare negli ultimi istanti. Allo stesso tempo abbiamo deciso di dedicare un'attenzione particolare anche agli operatori sanitari, che in questo momento vengono sì visti da tutti come dei veri e propri eroi, ma che spesso non si sentono tali perché vivono questa situazione con una serie di emozioni e di sentimenti non sempre facili da gestire. Momenti difficili da gestire e spesso troppa solitudine che tocca tutti noi, come ben racconta Maura, medico palliativista. Io giro per Milano, in una città semideserta e particolarmente silenziosa, e questo senso di questa protezione, questo silenzio, in qualche modo acuiscono un po', come dire, una sorta di distanza con le persone. Il nostro lavoro è fatto di cure che si attuano attraverso, anche tanto attraverso la relazione con le persone, e questi presidi in qualche modo allontanano pongono un po' una distanza tra noi e le persone e quindi anche un po' la fatica nell'instaurare la relazione, io la sento. Una sensazione questa di solitudine che pesa su tutti, soprattutto su coloro che erano malati già prima che esplodesse l'emergenza coronavirus, come racconta ancora Maura. Posso raccontarvi la storia di Liliana, lei ha la SLA. Liliana ha un grande giro di amicizie, mi verrebbe quasi da dire di volontari, cioè di persone che comunque la vanno a trovare regolarmente, qualcuno per una chiacchierata, qualcuno per assecondare un po' i suoi hobby. Lei è un'insegnante di francese, quindi ho sentito un'amica che andava lì, facevano conversazioni in francese, un altro amico che invece va lì tutti i pomeriggi, insieme dipingono, e in questi mesi ha prodotto una serie di quadri. Come dire, una casa, un ambiente, una persona vitale con molti stimoli, che purtroppo l'avvento del virus ha drasticamente ridotto, nel senso che ovviamente tutte queste persone non possono più andare. E quindi, al di là del fatto che la malattia di Liliana sia notevolmente aggravata, ma sicuramente il fatto di aver allontanato tutta questa rete di amici, di persone care, è stato per lei un motivo di chiudersi in depressione. È tutto, Diario termina qui, vi ringrazio per essere stati con noi, potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.